Capitolo 16. Anna, disse Devi con aria supplichevole, arrampicandosi sul divano lustro coperto di pelle della cucina di Green Gables, dove sedeva Anna intenta a leggere una lettera. Anna, ho una fame tremenda, non ne hai idea. Tra un attimo ti preparo una fetta di pane e burro, rispose Anna con aria assente. La lettera evidentemente conteneva notizie elettrizzanti, perché aveva le guance rosee come le rose del grosso cespuglio là fuori e gli occhi stellati come solo gli occhi di Anna potevano essere. Ma non ho fame di pane e burro, incalzò Davy con tono disgustato. Ho fame di plum cake. Oh, rise Anna posando la lettera e passando il braccio attorno alle spalle di Davy per dargli una stretta affettuosa. Questo è un tipo di fame che si sopporta con gran facilità, Devi mio. Sai bene che una delle regole di Marilla è di non prendere altro che pane e burro tra un pasto e l'altro. Beh, allora dammene una fetta, per piacere. Davy, alfine, aveva imparato a dire per piacere, ma in genere lo aggiungeva poi come una sorta di ripensamento. Guardò con approvazione la fetta generosa che Anna gli porgeva. Ci metti sempre una bella quantità di burro, Anna. Marilla invece lo stende sottile sottile. Va giù molto meglio quando c'è molto burro. La fetta andò giù con tollerabile facilità, a giudicare dalla sua rapida scomparsa. Davy scivolò a testa in giù dal sofà, fece un doppio capitombolo sul tappeto e poi si mise a sedere e annunciò con aria di sfida: Anna, ho preso una decisione riguardo al paradiso. Io non ci voglio andare. Perché no? Chiese Anna con aria molto seria. Perché il paradiso è nella soffitta di Simon Fletcher e Simon Fletcher mi è antipatico. Il paradiso? Nella soffitta di Simon Fletcher? Boccheggiò Anna, che non riusciva più neanche a ridere, tanto era stupita. Davy Keith, chi ti ha messo in testa un'idea così stramba? Milty Boulter dice che è là. È stato domenica scorsa alla scuola domenicale. La lezione era su Elia ed Eliseo e io mi sono alzato e ho chiesto alla signorina Rogerson dove era il paradiso. La signorina Rogerson ha assunto un'aria molto seccata. Era già arrabbiata perché quando ci aveva chiesto che cosa Elia avesse lasciato Eliseo quando era andato in paradiso, Milty Boulter aveva detto i vestiti smessi e noi giù tutti a ridere senza pensarci. Come vorrei poter pensare prima e poi fare le cose, così certe cose non le farei. Ma Milty non voleva mostrarsi irriverente, non riusciva a ricordare il nome della cosa. La signorina Rogerson mi ha detto che il paradiso era dove era Dio e che non dovevo fare domande di quel genere. Milty mi ha dato una gomitata e mi ha detto in un bisbiglio: Il paradiso è nella soffitta di mio zio Simon e quando andiamo a casa te lo spiego. Così, mentre tornavamo a casa, me l'ha spiegato. Milty è bravissimo per spiegare le cose, anche se di una cosa non sa niente, te ne dice tante e poi tante che alla fine l'hai capita lo stesso. Sua madre è la sorella della signora Simon ed è andata con lei al funerale quando è morta sua cugina Jane Ellen. Il pastore diceva che era andata in cielo, anche se Milty racconta che giaceva proprio davanti a loro nella bara. Ma ha pensato che forse poi avrebbero portato la bara in soffitta. Bene, quando Milty e sua madre andarono di sopra, finita la cerimonia, per prendere il suo cappellino, lui le ha chiesto dove era il paradiso, dove era andata Jane Ellen, e lei ha indicato con un dito il soffitto e ha risposto lassù. Milty sapeva che, a parte la soffitta, non c'era niente oltre il soffitto, ed è così che ha scoperto tutto. E da allora ha una tremenda paura di andare a trovare lo zio Simon. Anna si prese Davy sulle ginocchia e fece del suo meglio per dipanare questo groviglio della soffitta. Era molto più adatta di Marilla a questo compito, giacché ricordava la propria fanciullezza e aveva una comprensione istintiva per le strane idee che talvolta i bambini di 7 anni hanno su argomenti che ovviamente appaiono semplici e chiari agli adulti. Era appena riuscita a convincere Davy che il paradiso non era nella soffitta di Simon Fletcher quando arrivò Marilla dal giardino, dove lei e Dora erano andate a raccogliere i piselli. Dora era un piccolo essere industrioso e non era mai tanto contenta come quando poteva aiutare in svariati piccoli compiti adatti alle sue manine grassocce. Dava il mangime alle galline, raccoglieva i truccioli, asciugava i piatti, faceva una quantità di commissioni, era pulita, sincera e obbediente. Non occorreva mai ripeterle 2 volte la stessa cosa e non dimenticava mai nessuna delle sue piccole incombenze. Davy invece era negligente e sbadato. ma aveva il dono innato di accattivarsi l'altrui simpatia e perfino Anna e Marilla lo preferivano a Dora. Mentre Dora, tutta orgogliosa, sbucciava i piselli e Devi faceva delle barchette con i baccelli, dotandole di alberi fatti con i fiammiferi e di vele di carta, Anna raccontò a Marilla il meraviglioso contenuto della sua lettera. «Oh, Marilla, cosa ne dici? Ho ricevuto una lettera da Priscilla e dice che la signora Morgan è sull'isola e che se fa bel tempo giovedì verranno fino ad Avonlea e saranno da noi verso mezzogiorno. Passeranno il pomeriggio con noi e la sera andranno all'albergo White Sands, dove già si trovano degli amici americani della signora Morgan. Mi par quasi di sognare. Suppongo che la signora Morgan non sia poi tanto diversa dall'altra gente», disse bruscamente Marilla, che però si sentiva un tantino eccitata. «È la stessa. La signora Morgan era una donna famosa e una sua visita non era un avvenimento di tutti i giorni. Si fermeranno per colazione? Sì, e ascoltami, Marilla, posso cucinare tutto il pranzo, ma proprio tutto da me. Voglio sentire che sto facendo qualcosa per l'autrice del giardino dei boccioli e sia pure soltanto cucinare un pasto per lei. Non ti dispiace, vero? Misericordia, non sono così pazzamente desiderosa di cuocere a fuoco lento accanto a una stufa accesa di luglio da offendermi se qualcuno altro lo fa. Ti concedo volentieri questo permesso. Oh, grazie, disse Anna come se Marilla le avesse fatto un grossissimo favore. Studierò il menù stasera. Meglio non lanciarsi in cose troppo complicate e di stile, l'avvertì Marilla, un po' allarmata dall'altisonante parola menù. È probabile che se lo fai tu ti ritrovi poi a mal partito. Non farò cose complicate e di stile, se con questo tu intendi qualcosa che non si faccia di solito per i giorni di festa. Sarebbe pura e semplice ostentazione, e anche se so di non avere il buon senso che una ragazza di 17 anni, maestra, per giunta, dovrebbe avere, non sono poi così sciocca. Ma desidero che tutto sia il più grazioso e appetitoso possibile. Devi mio, non lasciare quelle bucce di pisello sulle scale, qualcuno potrebbe scivolarci sopra. Per cominciare, una minestrina leggera, sai che so fare delle ottime zuppe di cipolla, e poi un paio di polli arrosto. Prenderò i due galli bianchi. Sono affezionata a quelle bestie che sono stati i miei beniamini da quando la gallina grigia li ha covati. Erano dei battufoli gialli allora. Ma so che una volta o l'altra bisognerà pur sacrificarli, e quale migliore occasione di questa? Ma, oh Marilla, io non sono in grado di ucciderli, neanche per amore della signora Morgan. Dovrò chiedere a John Henry Carter che venga e provveda lui. Lo faccio io, si offrì Davy, ma solo se Marilla li tiene per le zampe. Mi sa che ho bisogno di tutte e due le mani per maneggiare la scure. È molto divertente vederli saltellare qua e là dopo che gli è stata tagliata la testa. E poi, come contorno, farò piselli e fagioli, purea di patate e insalata di lattuga, ricapitolò Anna. E per dessert, torta di limone con panna montata, caffè e baci di dama. Domani farò la torta e i baci di dama e metterò in ordine il mio vestito di mussolina bianca. E lo dirò a Diana stasera perché anche lei vorrà rinfrescare e stirare il suo. Le eroine della signora Morgan sono sempre vestite di mussolina bianca e Diana e io abbiamo sempre pensato che se l'avessimo conosciuta ci saremmo vestite proprio allo stesso modo. Sarebbe un complimento delicato, non credi? Devi, caro, non devi infilare i baccelli dei piselli nelle fessure del pavimento. Poi dovrò invitare a colazione anche il signore e la signora Allan. E la signorina Stacy, perché sono tutti molto desiderosi di conoscere la signora Morgan. Che fortuna che venga mentre la signorina Stacy è qui. Devi, caro, non mettere i baccelli a navigare nel secchio. Va fuori all'abbeveratoio. Oh, vorrei proprio che giovedì fosse bel tempo, e credo che lo sarà dal momento che zio Abe ieri sera, quando è venuto a trovare il signor Harrison, ha detto che avrebbe piovuto per quasi tutta la settimana. Questo è un buon segno, convenne Marilla. Quella sera Anna si precipitò a Orchard Slope per dare la notizia a Diana, che si mise anche lei in stato di grande agitazione, e insieme discussero della faccenda nell'amaca appesa sotto il grande salice nel giardino dei Barry. «Oh, Anna, lascia che ti aiuti a preparare il pranzo!» implorò Diana. «Lo sai che so fare una magnifica insalata di lattuga!» «Ma certo!» disse generosamente Anna. e vorrei anche che mi aiutassi a fare le decorazioni. Il salotto dovrà essere come un gran pergolato di boccioli e il tavolo da pranzo sarà adorno di rose selvatiche. Spero che tutto vada per il meglio. Le eroine della signora Morgan non combinano mai pasticci, né vengono mai colte alla sprovvista e sono sempre padrone di sé e ottime massaie. Si direbbe che nascano buone massaie. Ricordi che Gertrude, nei giorni di Edgewood, governava la casa per suo padre all'età di soli 8 anni? Quando io avevo 8 anni sapevo a malapena fare qualcosa, eccetto allevare bambini. La signora Morgan deve essere un'autorità in fatto di ragazze, dato che ha scritto tanto su di loro, e voglio che noi le facciamo una buona impressione. Ho immaginato questo incontro in almeno una decina di modi diversi. Che aspetto avrà lei? Che cosa dirà? E che cosa dirò io? E sono molto in ansia per il mio naso. Ci sono ben 7 lentiggini, come vedi. Mi sono venute il giorno del picnic della spa, quando me ne sono andata in giro al sole senza cappello. Suppongo che sia ingratitudine bella e buona da parte mia, quando invece dovrei ringraziare di non averle sparse per tutto il viso come una volta. Eppure vorrei che non mi fossero venute. Tutte le eroine della signora Morgan hanno una carnagione immacolata. Non ricordo che ve ne sia una con le lentiggini. Non è che le tue si vedano poi tanto. La confortò Diana. Prova a metterci su un po' di succo di limone stasera. Il giorno dopo Anna fece le torte e i baci di dama, stirò e rinfrescò l'abito di Mussolina e spazzò e spolverò ogni stanza della casa. Azione non del tutto necessaria, dato che Green Gables era sempre in perfetto ordine, come voleva Marilla. Ma Anna sentiva che un granello di polvere sarebbe stato una profanazione in una casa che stava per essere onorata dalla visita di Charlotte e Morgan. Pulì perfino il ripostiglio sgombraroba sotto le scale, anche se non vi era nessuna probabilità che la signora Morgan ne vedesse l'interno. Ma io voglio sentire che tutto è in ordine e perfetto, anche se lei non lo vede, disse Anna a Marilla. Sai, nel suo libro Le chiavi d'oro, le due eroine, Alice e Luisa, hanno per motto i versi di Longfellow. Negli antichi tempi dell'arte, i costruttori posero una gran cura nella più piccola e invisibile parte, poiché l'occhio di Dio vede oltre le mura. Sicché tenevano sempre pulite e ben spazzate le scale della cantina e non dimenticavano mai di scopare sotto i letti. Mi sentirei la coscienza sporca se sapessi che il ripostiglio è in disordine mentre la signora Morgan è in casa nostra. Da quando abbiamo letto Le chiavi d'oro nello scorso aprile, Diana ed io abbiamo adottato anche noi quel motto. Quella sera John Henry Carter e Davy, messi insieme, riuscirono a portare a termine l'esecuzione dei due galli bianchi. Anna li spennò e li preparò, e tale ingrato compito apparve quasi bello ai suoi occhi a causa della destinazione finale dei due polputi volatili. Non mi piace spennare i polli, confessò Marilla, ma non è una fortuna che non si debba mettere l'anima in quello che le nostre mani stanno facendo. Con le mani spennavo polli, ma con la fantasia me ne andavo a spasso per la Via Lattea. Sì, ho notato che hai sparso sul pavimento più penne del solito, osservò Marilla. Poi Anna mise Davy a letto e gli fece promettere che l'indomani si sarebbe comportato perfettamente. Se domani sarò buonissimo, il più buono che posso, per tutto il giorno, mi permetti di essere cattivo almeno quanto voglio, dopodomani? Chiese Davy. Questo non posso permettertelo, disse Anna senza compromettersi, ma porterò te e Dora a remare in barca fino in fondo al laghetto e poi andremo a terra tra le dune e faremo un picnic. Affare fatto, esclamò Davy. Ci puoi scommettere che sarò buono. Volevo andare dal signor Harrison a sparare i piselli a Ginger con il mio nuovo fucile ad aria compressa, ma andrà bene anche un altro giorno. Prevedo che domani sarà come domenica, ma un picnic sulla spiaggia mi compenserà. Capitolo 17. Anna quella notte si svegliò ben 3 volte e andò in pellegrinaggio alla finestra per assicurarsi che le previsioni di zio Abe non si avverassero. Finalmente spuntò un'alba perlacea e splendente in un cielo argenteo. Ecco, quel meraviglioso giorno era arrivato. Diana comparve subito dopo colazione con un cestino di fiori a un braccio e il suo vestito di mussolina sull'altro, giacché non era il caso di indossarlo finché tutti i preparativi per il pranzo non fossero terminati. Per il momento indossava l'abito rosa di tela stampata del pomeriggio, e un grembiule da mattina tutto fitto di gale e di increspature. Aveva un aspetto nitido e grazioso, tutta rosea com'era. «Sei proprio un amore», disse Anna in tono ammirato. Diana sospirò. «Ma ho dovuto di nuovo allargarmi tutti i vestiti. Peso 2 chili in più che a luglio. Anna, come andrà a finire? Le eroine della signora Morgan sono tutte alte e slanciate. Bene, dimentichiamo le nostre afflizioni e pensiamo ai doni che ci sono stati elargiti», commentò Anna allegramente. «La signora Allan dice che ogni volta che ci viene in mente qualche cosa che ci turba, dovremmo pensare anche a qualcosa di bello da contrappogli. Tu, per esempio, se sei un po' grassottella, hai però le più belle fossette del mondo. E io, che ho un naso lentigginoso, devo pensare che la sua forma è proprio graziosa. Credi che il succo di limone abbia fatto effetto?» Sì, penso di sì», fece Diana scrutandola con occhio critico. Allora, molto sollevata, Anna la precedette uscendo nel giardino fitto d'ombre delicate e di tremule luci d'oro. «Prima di tutto decoreremo il salotto. Abbiamo un mucchio di tempo. Priscilla ha detto che sarebbero state qui verso mezzogiorno o al più tardi mezzogiorno e mezzo per pranzare poi all'una. Può darsi che in tutto il Canada e negli Stati Uniti ci fossero in quel momento due fanciulle più felici e più eccitate di loro, ma ne dubito. A ogni taglio di forbici, mentre rose, peoni e campanule cadevano nel cestino, sembrava che qualcuno cinguettasse: «Oggi viene la signora Morgan!» Anna si chiese persino come facesse il signor Harrison a continuare placidamente a falciare il fieno nel suo campo, oltre il prato, come se niente fosse. Il salotto di Green Gables era una stanza piuttosto austera e un po' tetra, con mobili rigidi e spigolosi, tendine di merletto inamidate, salvabraccioli e schienali sempre in ordine, tranne quando restavano attaccati ai bottoni di qualche malcapitato. Perfino Anna non era mai riuscita a renderlo più accogliente perché Marilla non consentiva alcun mutamento. Ma quello che possono fare i fiori, se gli si presenta l'occasione, è davvero meraviglioso. Quando Anna e Diana ebbero terminato, la stanza era irriconoscibile. Una gran coppa azzurra, colma di soffioni, traboccava sul tavolo lucido. Il camino di un nero splendente era carico di rose e di felci. Ogni ripiano della scansia sosteneva un fascio di campanule. Gli angoli bui, d'ambo i lati del focolare, erano illuminati da orci ricolmi di splendide peonie porporine, e il focolare stesso era acceso da mucchi di papaveri gialli. Tutto questo splendore di colori, unito alla luce che filtrava attraverso i vitici del caprifoglio alle finestre, in un'orgia fronzuta di ombre danzanti sui muri e sul pavimento, rendeva la piccola stanza, solitamente tetra, quel vero pergolato sognato dalla fantasia di Anna, e suscitò perfino un tributo di ammirazione da parte di Marilla, che era entrata per criticare e restò invece a tessere lodi. «E ora dobbiamo preparare la tavola», disse Anna con il tono di una sacerdotessa che si appresti a compiere qualche sacro rito in onore di una divinità. «Metteremo al centro una coppa bassa di rose selvatiche e un'unica rosa davanti al piatto di ogni commensale e un mazzetto particolare di soli boccioli al posto della signora Morgan, un'allusione al giardino dei boccioli». La tavola fu preparata nel salotto con la più bella tovaglia di Marilla e i più bei bicchieri e piatti di porcellana e posate d'argento. Si può essere assolutamente certi che ogni oggetto posato su quel tavolo fu lustrato e pulito fino al massimo grado della perfezione. Poi le ragazze tornarono allegramente in cucina, colma di odori appetitosi provenienti dal forno, dove i polli stavano già rosolando. Anna preparò le patate, sbucciò piselli e fagioli e poi, mentre Diana si rinchiudeva nel tinello per dedicarsi all'insalata di lattuga, Anna, le cui guance avevano assunto il colore di un bel rosso cremisi, sia per l'eccitazione sia per il colore del fuoco, preparò la salsa di pane per i polli, affettò le cipolle per la zuppa e alla fine montò la panna per la torta al limone. E cosa accadeva di Davy in tutto questo tempo? Stava mantenendo la promessa di essere buono? Ebbene sì. A dir la verità, egli insisteva per restare in cucina, giacché la sua curiosità esigeva di seguire gli avvenimenti, ma dato che sedeva quietamente in un angolo, occupato a disfare i nodi di un pezzo di rete per aringhe che aveva portato a casa, Dall'ultima sua gita alla spiaggia, nessuno ebbe nulla da obiettare. Alle 11:30 l'insalata di lattuga era belle pronta, i cerchi dorati delle due torte al limone erano ricoperti di panna montata e tutto ciò che doveva rosolare e bollire stava appunto rosolando e bollendo. Faremo bene a vestirci ora, disse Anna, perché potrebbero essere qui a mezzogiorno. Dobbiamo pranzare all'una in punto perché la minestra deve essere servita appena fatta. Il rituale della vestizione nell'abbaino est fu seguito con molta serietà. Anna continuava a sbirciarsi, preoccupata per il naso, ma notò con gioia che le lentiggini si vedevano appena grazie al succo di limone o all'insolito rossore che le tingeva le guance. Quando furono pronte, le due fanciulle erano carine e civettuole, come qualunque rispettabile eroina della signora Morgan. Spero di riuscire a spiccicare qualche parola ogni tanto e a non starmene lì seduta come se fossi muta, disse Diana preoccupata. Tutte le eroine della signora Morgan hanno il dono della conversazione. Io temo che me ne starò in silenzio come una stupida. E sono sicura che mi scapperà di dire, capito? Non l'ho più detto da quando è venuta a insegnare la signorina Stacy, ma nei momenti di eccitazione sono certa di lasciarmelo scappare. Anna, se dovessi dire, capito, davanti alla signora Morgan, morirei per l'umiliazione. Sarebbe quasi peggio che non avere niente da dire. Oh, io sono nervosa per un sacco di cose, disse Anna, ma non temo di non riuscire ad aprire bocca. E se vogliamo renderle giustizia, aveva proprio ragione. Anna ammantò la sua gloriosa mussolina in un immenso grembiule e scese a preparare la minestra. Marilla si era vestita e aveva agghindato i gemelli e pareva più eccitata di quanto non fosse mai stata. Alle 12:30 arrivarono gli Allan e la signorina Stacy. Tutto procedeva bene, ma Anna cominciava a innervosirsi. Priscilla e la signora Morgan sarebbero già dovute arrivare. Si diede a frequenti andirivieni dalla casa al cancello e scrutò ansiosamente lungo il viale, così come la sua omonima nella fiaba di Barba Blu scrutava dalla finestra della torre. E se non venissero? Disse Anna con aria costernata. Ma cosa dici? Sarebbe veramente sgarbato da parte loro, disse Diana, che tuttavia cominciava a nutrire spiacevoli apprensioni a questo proposito. Anna, disse Marilla uscendo dal salotto, la signorina Stacy vorrebbe vedere il piatto di porcellana cinese della signora Barry. Anna si affrettò verso l'armadio del salotto per prendere il piatto. Come aveva promesso alla signora Linda, aveva scritto alla signorina Barry di Charlottetown chiedendole di prestarglielo. La signorina Barry era una vecchia amica di Anna e le aveva subito mandato il piatto con una lettera in cui pregava Anna di farci molta attenzione, giacché l'aveva pagato ben $20. Il piatto aveva fatto bella mostra di sé alla fiera della società di mutuo soccorso ed era stato poi debitamente riposto nell'armadio di Green Gables, poiché Anna non osava affidarlo ad altri che a se stessa per riportarlo in città. Portò con ogni attenzione il piatto alla porta d'ingresso, dove i suoi ospiti si godevano il fresco venticello che spirava dal torrente. Fu esaminato e ammirato, e poi, proprio mentre Anna lo riprendeva in mano, uno scroscio e un acciottolio terrificanti si udirono provenire dal tinello adiacente la cucina. Marilla, Diana e Anna si precipitarono. Quest'ultima si fermò soltanto un attimo per deporre il prezioso piatto sul secondo gradino delle scale. Quando furono nel tinello, uno spettacolo straziante si presentò dinanzi ai loro occhi. Un ragazzino con l'aria colpevole sgattaiolava giù dal tavolo con la camicetta di tela pulita, ampiamente impiastricciata di crema gialla, e sul tavolo gli sparsi resti di quello che erano state due valorose torte al limone guarnite di panna. Davy aveva finito di sbrogliare la sua rete e aveva arrotolato il filo in una palla, poi era andato in dispensa per metterla sullo scaffale sopra la tavola, dove già teneva una decina o più di analoghi gomitoli, che, a quanto fu possibile appurare, non avevano altro scopo utile se non quello di dare al bambino la gioia del possesso. Davy aveva dovuto arrampicarsi sul tavolo per arrivare allo scaffale con una pericolosa angolazione, cosa che gli era già stata vietata da Marilla, essendo già egli una volta incorso in un guaio durante quell'esperimento. Il risultato in questo caso fu disastroso. Davy scivolò e cadde esattamente sulle torte al limone. La camicetta pulita venne tutta insozzata e le torte furono rovinate all'istante e per sempre. Comunque, Non tutto il male viene per nuocere, e alla fine ci fu qualcuno che ci guadagnò nella disavventura di Davy, e questo qualcuno fu il maiale. Davy Keith, gridò Marilla scuotendolo per la spalla, non ti avevo proibito di salire su quel tavolo, eh? Non te l'avevo proibito? L'ho dimenticato, frignò Davy. Mi hai proibito di fare una tale quantità di cose che non me le ricordo tutte. Bene, fila in camera tua e restaci fino a dopo pranzo. Forse nel frattempo te ne farai tornare alla memoria qualcuna. No, Anna, non darti pena di intercedere per lui. Non lo punisco perché ha rovinato le tue torte. Si è trattato di un incidente. Lo punisco per la sua disobbedienza. Vai, Davy, ho detto. E non avrò niente per pranzo? Piagnucolò Davy. Puoi scendere dopo che noi abbiamo finito il pranzo e mangiare da solo in cucina. Oh, benissimo, disse Davy in un certo qual modo consolato. So che Anna mi terrà da parte qualche bell'osso, vero Anna? Perché tu lo sai che non l'ho fatto apposta a cadere sulle torte. Senti, Anna, dato che ormai sono rovinate, non potrai portarmene in camera qualche pezzo? No, niente torta al limone per te, signorino Davy, intervenne Marilla spingendolo verso l'ingresso. E adesso? Che cosa faremo per dessert? Chiese Anna guardando sconsolata quello sfacelo. Prendi un barattolo di marmellata di fragola, suggerì Marilla cercando di consolarla. C'è ancora tanta panna montata nella scodella. Venne l'una, ma nessuna traccia di Priscilla o della signorina Morgan. Anna era in uno stato di grande angoscia. Tutto era pronto e la minestra era esattamente quello che una minestra dovrebbe essere, ma non si poteva giurare che sarebbe rimasta così in eterno. Non credo che verranno più ormai, disse brusca Marilla. Anna e Diana cercarono conforto l'una negli occhi dell'altra e all'1:30 Marilla emerse di nuovo dal salotto. Ragazze, dobbiamo mangiare, abbiamo tutti fame ed è inutile aspettare ancora. Priscilla e la signora Morgan non verranno, questo è chiaro, e aspettare non cambia un bel niente. Anna e Diana, svanita ogni entusiasmo, si disposero a servire il pranzo. Non riuscirò a ingoiare un boccone, disse Diana malinconica. Neanche io, ma spero che almeno vada tutto bene per la signorina Stacy e i signori Alan, aggiunse con tono indifferente. Quando Diana scodellò i piselli, li assaggiò e un'espressione assai strana comparve sul suo viso. Anna, hai messo zucchero in questi piselli? Sì, disse Anna, passando le patate con l'aria di una che assolve un compito abituale. Ci ho messo un cucchiaino di zucchero, lo facciamo sempre. Non ti piace? Il fatto è che anche io ci ho messo un cucchiaino di zucchero quando li ho messi sul fuoco, aggiunse Diana. Anna posò il passaverdura e assaggiò anche lei i piselli, poi fece una smorfia. Che orrore! Non ho pensato che tu ci avessi messo lo zucchero perché so che tua madre non lo fa mai. Mi è venuto in mente per un caso di metterlo. Di solito me lo dimentico. E ce ne ho messo una bella cucchiaiata. Troppe cuoche, mi sa. Commentò Marilla, che aveva ascoltato questo dialogo con espressione alquanto colpevole. Io non pensavo che tu ti ricordassi dello zucchero, Anna, sicura com'ero che non lo fai mai, e così anch'io ce ne ho messo un'altra cucchiaiata. Gli ospiti nel salotto sentirono, l'uno dopo l'altro, scrosci di risate provenire dalla cucina, ma non seppero mai il motivo di tanta allegria. In ogni caso, quel giorno i piselli non comparvero in tavola. Beh, disse Anna con un sospiro, tornando di nuovo seria. In ogni caso abbiamo l'insalata e spero che non sia accaduto nulla ai fagioli. Portiamo tutto in tavola e non pensiamoci più. Non si può dire che quel pranzo fosse un gran successo, socialmente parlando. Gli Alan e la signorina Stacy fecero di tutto per salvare la situazione e la consueta calma di Marilla non fu particolarmente intaccata. Ma Anna e Diana, tra la delusione e la reazione all'entusiasmo della mattina, non riuscirono né a parlare né a mangiare. Anna tentò eroicamente di far la sua parte nella conversazione per amore degli ospiti, ma ogni brio si era spento in lei per il momento. E nonostante la simpatia che provava per gli Alan e la signorina Stacy, non poteva fare a meno di pensare a come sarebbe stato bello quando tutti se ne fossero andati a casa e lei avesse potuto seppellire la stanchezza e la delusione tra i cuscini nel suo abbaino. C'è un vecchio proverbio che a volte sembra assai appropriato. Piove sul bagnato, oppure le disgrazie non vengono mai sole. La misura dei guai di quel giorno non era ancora colma. Proprio nel momento in cui il signor Allan finiva di porgere i suoi ringraziamenti, Si udì uno strano, minaccioso rumore lungo le scale, come se un qualche oggetto grosso e pesante balzasse da uno scalino all'altro, finendo giù in fondo con un grande fracasso. Tutti corsero nell'atrio. Anna uscì in un grido di costernazione. Ai piedi della scala giaceva una grande conchiglia rosea tra i frammenti di quello che era stato un tempo il piatto di porcellana cinese della signorina Barry. E in cima alle scale era inginocchiato un Davy terrorizzato che fissava sgomento con gli occhi spalancati tutto quel disastro. «Davy!» gridò Marilla infuriata. «L'hai fatto apposta a gettare giù quella conchiglia!» «No, no!» piagnucolò Davy. «Io mi ero inginocchiato qui tutto tranquillo a guardare voi tra le sbarre della ringhiera e con il piede ho urtato in quella vecchia cosa e così l'ho spinta giù. Ma ho una fame terribile e preferirei che voi mi picchiaste una buona volta invece di mandarmi sempre in camera dove mi perdo ogni divertimento!» «Non è di Davy la colpa!» intervenne Anna raccogliendo i frammenti con dita tremanti. «La colpa è mia!» Ho messo qui quel piatto e me ne sono completamente dimenticata. Eccomi punita per la mia negligenza. Ma che dirà la signorina Barry? Ah, povera me! Beh, perlomeno sai che lo ha comperato e che non è lo stesso che se lo avesse ricevuto in eredità, disse Diana cercando di consolarla. Gli ospiti andarono via quasi subito. Sentendo che era la cosa più opportuna da fare, e Anna e Diana lavarono i piatti, parlando meno di quanto avessero mai fatto. Poi Diana andò a casa con il mal di testa e Anna, anche lei con il mal di testa, salì nell'abbaino dove rimase fino a quando Marilla, sul far del tramonto, tornò dall'ufficio postale con la lettera di Priscilla scritta il giorno prima. La signora Morgan si era slogata la caviglia in modo così grave che non poteva lasciare la stanza. «Anna cara», scriveva Priscilla, «mi dispiace tanto, ma temo che ormai non verremo più a Green Gables, perché quando la caviglia della zia sarà guarita lei dovrà tornare a Toronto, deve essere lì per una certa data». «Ah, oh, bene», sospirò Anna, posando la lettera sul rosso gradino di arenaria nel portico, sul retro della casa, dove sedeva mentre il crepuscolo scendeva lento nel cielo screziato. Ho sempre pensato che fosse troppo bello per essere vero, che la signora Morgan ci venisse davvero a trovare. Però questa frase suona proprio male, come una di quelle pessimistiche di Eliza Andrew, e mi vergogno di averla detta. Dopotutto non è che fosse troppo bello per essere vero, dato che cose altrettanto belle e anche di più si sono avverate per me e continuano ad avverarsi. Anzi, mi pare che gli avvenimenti di oggi abbiano persino un loro lato umoristico. Forse quando Diana e io saremo vecchie e sagge riusciremo a riderne, ma non penso di poterlo fare prima, perché è stata davvero un'amara delusione. È probabile che con il passare del tempo di delusioni tu ne abbia altre ben peggiori di questa, disse Marilla, convinta in buona fede di fare un discorso consolatorio. Mi sembra, Anna, che tu non riesca a perdere quel tuo modo di appassionarti troppo alle cose, per poi piombare nella disperazione se non riesci ad averle. «Oh, lo so di appassionarmi troppo», convenne Anna. «Quando penso che sta per accadere qualcosa di bello, lo pregusto tanto che mi par quasi di volare. E poi, non appena prendo contatto con la realtà, piombo a terra con un tonfo. Eppure, Marilla, il momento del volo è così eccitante finché dura che è come librarsi attraverso un tramonto. Credo che tutto questo compensi poi il tonfo». «Beh, può darsi», ammise Marilla. «In quanto a me preferisco camminare con calma e fare a meno sia del volo sia del tonfo. Ma ognuno ha il suo modo di vivere. Una volta pensavo che ne esistesse solo uno e che fosse quello giusto, ma da quando ho avuto te i gemelli da tirar su non ne sono più tanto sicura. Che farai riguardo al piatto della signorina Barry? Le rifonderò i $20 che le è costato, immagino. Grazie al cielo non era un prezioso cimelio di famiglia, perché allora non vi sarebbe stato danaro per ripagarlo. Forse potresti trovarne uno analogo da qualche parte e comprarglielo. Temo di no. Piatti da portata così antichi sono piuttosto rari. La signora Linde non era riuscita a trovarne uno da nessuna parte per la cena. Magari potessi, perché sono certa che la signorina Barry non farebbe differenza tra un piatto e l'altro, purché fossero entrambi antichi e autentici. Marilla, guarda quella grande stella sul boschetto di aceri del signor Harrison, nel gran silenzio del cielo argenteo che la circonda. Mi dà una sensazione che somiglia a una preghiera. Dopotutto, quando si possono vedere stelle e cieli come questi, le piccole delusioni e gli incidenti non contano poi molto, vero? Dov'è Davy? Chiese Marilla a questo punto, dando un'occhiata indifferente alla stella. A letto. Ho promesso di portare lui e Dora a fare un picnic sulla spiaggia domani. Naturalmente, l'accordo in origine era che doveva comportarsi bene. Comunque sia, lui ha tentato e non vorrei deluderlo. Annegherai. Tu e i gemelli insieme se li porti a remi sul laghetto con quella barca, brontolò Marilla. Vivo qui da 60 anni e non sono mai stata in barca io. Non è mai troppo tardi, fece Anna con un sorriso malizioso. E se venissi con noi domani? Chiudiamo Green Gables e passiamo tutta la giornata sulla spiaggia, estraniandoci dal mondo. No, grazie, disse Marilla con calore. Bella figura farei a rimare sullo stagno su una barchetta a fondo piatto. Mi sembra già di sentire Rachel dire la sua. Guarda là il signor Harrison che se ne va in giro in calesse. Credi che ci sia qualcosa di vero nel pettegolezzo che il signor Harrison va a trovare Isabella Andrew? No, sono certa di no. È capitato lì una sera per parlare di affari con il signor Harmon Andrew e la signora Linde. Lo ha visto e ha detto che di sicuro era lì per farle la corte, dato che aveva la camicia bianca. No, non credo che il signor Harrison si sposerà. Mi sembra assai prevenuto nei confronti del matrimonio. Oh, non si può mai dire con i vecchi scapoli. E se aveva la camicia bianca, convengo con Rece che la cosa era sospetta, dal momento che gliene ho mai vista indossare una. Io credo invece che se la sia messa solo perché voleva concludere una transazione d'affari con Harmon Andrew, disse Anna. L'ho sentito dire che l'unica volta in cui un uomo deve essere elegante nell'aspetto è proprio in un caso del genere, perché se ha l'aria benestante, la parte contraente non avrà l'ardire di truffarlo. Mi dispiace per il signor Harrison. Non credo sia soddisfatto della sua vita. Deve essere molto triste non avere nessuno da amare, salvo un pappagallo, non credi? Però mi sono accorta che al signor Harrison non piace essere compatito. Beh, non piace a nessuno, immagino. Ecco Gilbert che sta risalendo il viale, fece Marilla. Se vuole portarti in barca sul lago, ricordati di metterti il cappotto e le soprascarpe di gomma. C'è parecchia rugiada stasera.